l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Come ogni settimana siamo qua per raccontare altri punti di vista, altre sfaccettature di questo bel percorso europeo, questo percorso comune che cerchiamo di seguire quotidianamente. Radio 24 lo fa, raccontando quella che è l'attualità politica, economica. Noi il sabato cerchiamo così anche altre vie. Le coordinate per incontrarci in rete: euronetplus.eu, il nostro portale. Euronet Plus è il network al quale apparteniamo. In questo portale tante inchieste, tanti dossier in tante lingue diverse. Oppure chiocciola Euronet Plus R24 o ancora la mia personale chiocciola Federico Taddia per interagire sui social network, in particolare Twitter e Facebook, e piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Oggi è l'ultima puntata dell'anno e quindi guardiamo anche un po' indietro. Non vi proponiamo nessun calendario, cercheremo un po' di fare una carrellata per non dimenticare, perché la memoria, anche la memoria vicina, la memoria prossima è fondamentale. Si volta pagina, cambia un anno, ma non è che appunto finisce un'era. Questa Europa in cui abbiamo lasciato tanti segni, tanti posti, in questo 2013 dobbiamo ripassare, fare nostre le cose più importanti e riversarle nel nuovo anno, che sarà un anno molto importante per l'Europa. E partiamo dalla Turchia. Un pianoforte che suonava nella piazza delle proteste è diventato un'immagine simbolo di questa Turchia, la Turchia che rappresenta forse l'Europa di domani, la Turchia che rappresenta un ponte verso quello che c'è al di là dell'Europa. E abbiamo scelto questa musica per dare il benvenuto all'ospite che ci guiderà, ci darà una mano a ricostruire i punti salienti di questo 2013. Do il benvenuto al vice direttore del settimanale internazionale, Jacopo Zanchini. Ciao Jacopo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao. Grazie mille. Grazie per aver ripassato per noi questo anno che insomma è stato ricco di tantissime vicende. Sicuramente la Turchia, dicevi tu, è stato sicuramente l'anno della Turchia in negativo e in positivo. Uh-huh. E direi che ci porteremo il tema turco nel 2014 allegramente, visto lo scandalo di queste settimane che ha coinvolto il governo e persone molto vicine al primo ministro Erdogan. E proprio Erdogan e a Gezi Park ha voluto mostrare questa la primavera scorsa, nel 2013, un volto più autoritario di una Turchia che sembrava placida, destinata alla crescita economica, che non guardava più tanto all'Europa ma cominciava una politica estera cosiddetta neo-ottomana, verso il Medio Oriente, si è molto impegnata in Siria, rivaleggia con le altre potenze sunnite per l'egemonia sunnita nel nuovo Medio Oriente. E proprio questa Turchia si è ritrovata con i suoi giovani, le sue elite intellettuali che si sono ribellate proprio a Gezi Park, e Erdogan ha mostrato un volto più cattivo, più autoritario di quello che si immaginava. Il modello turco ha scricchiolato un po' quest'anno, vediamo insomma il 2014 cosa ci riserva. Con le istituzioni che pare abbiano voltato le spalle all'Europa, i giovani invece che guardano l'Europa, quindi questo contrasto interno sicuramente non risolto, e come sempre che metterà alla prova anche la solidità dell'Unione Europea, perché sono sempre delle cartine di tornasole, certo, complicate, vero? Assolutamente. Come naturalmente è stato anche l'anno della Germania, voi direte sono diversi anni che è l'anno della Germania, però quest'anno probabilmente è stato un anno particolare, perché ci sono state le elezioni tedesche, e se vi ricordate prima si diceva sempre aspettiamo le elezioni tedesche per qualsiasi decisione europea, aspettiamo le elezioni tedesche e vedremo. Adesso ci sono state le elezioni a settembre e c'è il governo di grande coalizione, che peraltro è stato un parto molto difficile. Mm-hmm. 86 giorni per formare un governo, il record assoluto per la Germania, mai c'era voluto così tanto tempo. Il record precedente era 65 giorni nel 2005, sempre una grande coalizione. C'è stata la consultazione tra gli iscritti del Partito Socialdemocratico, che hanno votato a favore del governo di grande coalizione, che però complessivamente si presenta come un governo con più spesa pubblica e più riforme sociali, e questo non può non avere un impatto, secondo molti, anche sull'Europa. come potrebbe la signora cancelliera Merkel presentarsi come campione delle riforme sociali della spesa pubblica in casa e invece chiedere ai partner europei ancora sacrifici. Certo. Ecco, Turchia, il paese ha scritto che probabilmente è morta l'austerità illimitata e comincia una tappa di sobrietà più equilibrata. Questo passaggio mi piaceva, il passaggio dall'austerità alla sobrietà sembra poco, ma forse soprattutto per i paesi mediterranei è importante. Assolutamente. Turchia e Germania, i primi due punti di questa sintesi, una sorta di decalogo dell'Europa che è stata. Il terzo punto, il terzo post-it, dove lo mettiamo? Il terzo post-it lo metterei in Francia o comunque nella politica estera europea. Gli interventi militari della Francia in Mali a gennaio e in Repubblica Centrafricana a dicembre sono sembrati ad alcuni neocoloniali, ad altri sono sembrati una specie di embrione di una politica estera europea in cui la Francia si è fatta paese leader in una fase di ritiro americano soprattutto dal Medio Oriente e dal Mediterraneo, come a dire anche l'Europa, c'è anche la Francia che supplisce una carenza europea. Quando a dicembre si è firmato invece il primo accordo sul nucleare iraniano, lo ha firmato Catherine Ashton, rappresentante delle relazioni esterne dell'Unione Europea, quell'embrione di ministro degli esteri europeo che non c'è mai stato. Questo è stato un passaggio che in qualche modo ha definito un piccolo successo della politica estera europea, che su tanti altri fronti sembra un pochino latitante. E poi ti porto in Grecia e ti porto con questa musica. Lui è Killapi, rapper greco ucciso quest'anno. Che anno è stato per la Grecia, Jacopo? Appunto, ricordavi tu il 18 settembre, l'omicidio di Pavlos Fissas e le sue conseguenze. È stato un anno molto difficile per il paese e lo è stato difficile anche ovviamente la violenza politica e l'omicidio del rapper, a cui però è seguita un'offensiva giudiziaria delle autorità finalmente contro il gruppo neonazista Alba Dorata, che si è distinto per le violenze contro gli immigrati per anni, poi ha colpito un greco e qui c'è stata una vera reazione. Allo stesso tempo, un po' come contraltare la Germania, è stato purtroppo anche l'anno della Grecia in senso di nuovo negativo. Recentemente ha approvato una nuova ondata di tagli al settore pubblico, ricordiamo che quest'anno è stata chiusa la televisione pubblica e se ne è parlato molto, e soprattutto ricordiamo purtroppo qualche dato: la disoccupazione totale del 2013 è al 27%, quella giovanile nella fascia 25-29 al 43,8% e nella fascia 15-24 è quasi al 60%, quindi speriamo che il 2014, con l'ammorbidire dell'austerità di cui parlavamo prima, porti un po' di sollievo anche alla Grecia. Certo. Jacopo, adesso ci fermiamo un attimo, poi continuiamo a raccogliere i post-it legati al 2013. Un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Tirocini a Euradio Nantes. Siete studenti di scienze politiche, giornalismo o studi europei? Siete interessati alle tematiche europee e volete fare un'esperienza di formazione fuori dall'Italia? Se conoscete anche il francese, allora avete i requisiti per candidarvi al bando per i tirocini a Euradio Nantes, che ha base nella città francese ma ha un team internazionale anche grazie alle sue partnership europee. Il tirocinio avrà inizio il 24 febbraio e terminerà il 13 luglio 2014. I tirocinanti saranno seguiti da professionisti che insegneranno loro tutti i trucchi del mestiere. Chi sarà scelto per il tirocinio quest'anno avrà anche la possibilità di seguire le elezioni europee a Strasburgo. È prevista anche una piccola retribuzione. Per saperne di più, euradionant.eu. Per candidarsi c'è tempo fino al 31 dicembre. E per rivivere il nostro 2013, il 2013 europeo, ripartiamo dalla musica in occasione dei festeggiamenti per l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea. Con noi Jacopo Zanchini, vice direttore di Internazionale, al quale abbiamo chiesto di fare una sintesi complicata, 10 punti da ricordare assolutamente di questo anno europeo. Jacopo, l'ingresso della Croazia è sicuramente un post-it da inserire. Sicuramente importante, il 28esimo membro dell'Unione Europea, ricordarci quanto è grande l'Europa. I croati sono entrati con un referendum a cui hanno partecipato effettivamente un po' in pochini, c'è stato subito uno scontro con Bruxelles quest'anno sul mandato di arresto europeo che ha portato quasi al congelamento dei fondi strutturali, e poi hanno adesso inserito in Costituzione con un referendum la definizione di matrimonio solo come legame tra uomo e donna, certo. Di nuovo in polemica con le autorità europee. Quindi diciamo la Croazia è entrata, ma un po' come il membro Monello, il nuovo arrivato un pochino cattivello. Mentre sempre nei Balcani un altro fatto importante è il censimento che c'è stato invece in Bosnia e Erzegovina, il primo censimento dopo quello del 91, quindi dopo la guerra, un censimento che deve naturalmente in parte anche ratificare quelle che sono state le brutalità, la pulizia etnica, i risultati anche da un punto di vista della composizione della popolazione della guerra in Bosnia. Il censimento è stato fatto in ottobre, ma i dati non verranno diffusi prima dell'ottobre 2014, perché sono dei dati troppo sensibili per essere diffusi prima delle elezioni che ci saranno a quella data, tanto per far capire quanto in questa nostra Europa, diciamo, geografica, alcune tensioni non siano ancora assorbite. Ed è stato anche l'anno delle grandi manifestazioni di protesta in nazioni come Bulgaria e Romania, di cui sono arrivati gli echi, sono arrivati gli echi di queste manifestazioni, però con una strana tensione, come sempre, no? Per quello che riguarda i media e per quello che riguarda anche l'ambito giornalistico. Cosa sta accadendo? Cos'è accaduto? Sì, perché in Bulgaria è stato un anno di proteste che sono andate avanti praticamente per tutto il 2013 e hanno fatto cadere un governo conservatore a febbraio, e adesso rischiano di farne cadere uno di centrosinistra in questi mesi con le proteste degli studenti. È difficile poi questa distinzione in un paese come la Bulgaria tra destra e sinistra, perché ha una classe politica piuttosto compattamente screditata e abbastanza corrotta. E in questi paesi però comincia ad esserci un'opinione pubblica consapevole dei propri diritti che protesta e incide veramente. Anche in Romania la protesta non è stata così imponente come nella vicina Bulgaria ed è stata legata a questioni ambientali, ma la novità è che i cittadini scendono in piazza, protestano e tengono il punto anche molto a lungo e incidono sull'agenda politica dei governi. E ancora una volta l'Unione Europea si è trovata a dover comunque reagire, a dover esserci, a dover rivendicare la propria presenza, non sempre in maniera lineare, questo dobbiamo ammetterlo. E a proposito di Unione Europea e rapporti, in questo caso con un altro colosso, stiamo parlando della Russia, c'è il caso Ucraina. L'Ucraina, con cui si è chiuso malamente questo 2013 per l'Unione Europea, Vladimir Putin ha preso il libretto degli assegni e si è sostanzialmente comprato l'amicizia dell'Ucraina, mentre con il suo partenariato strategico, mentre l'Europa erano anni che lavorava per un accordo di associazione con Kiev. Una pagina questa negativa per l'Unione Europea, che si è trovata a non saper reagire alla forza e all'imposizione di Mosca, se non con delle promesse, lasciando un po' soli anche tutti quei cittadini ucraini che sono scesi per mesi in piazza protestando contro il presidente Yanukovych e le sue tendenze autoritarie. Speriamo che l'Ucraina non si trasformi in un'altra Bielorussia ai confini dell'Europa. Sono rimaste un paio di caselle ancora aperte. Sì, una che è particolarmente importante, il naufragio del 3 ottobre di Lampedusa con centinaia di vittime, la politica migratoria europea sotto accusa, quasi 400 morti e soprattutto un'idea di fortezza Europa che scricchiola, ma che non riesce a passare dalla testa dei governi, l'idea che a proteggere le frontiere europee debba essere per forza un'idea di chiusura, di imposizione di muri che causano grandi sofferenze. E invece l'ultima notizia che mi piaceva sottolineare l'indipendentismo che serpeggia in giro per grandi paesi dell'Unione Europea. Ci abbiamo la Catalogna e la Scozia che premono per fare un referendum. Entrambe hanno approvato un referendum nel 2013 che ci sarà e si svolgerà nel 2014 molto probabilmente. Entrambe sostengono di volere l'indipendenza, l'una dalla Spagna e l'altra dal Regno Unito, ma non si sa se questo sia effettivamente una volontà di indipendenza o piuttosto un alzare la posta per cercare di avere più autonomia, più soldi e più potere all'interno delle nazioni. Naturalmente l'Europa dovrà e potrà su questo agire da mediatore in questo conflitto interno ai suoi paesi membri. Vediamo cosa farà. Un grazie davvero a Jacopo Zanchini per aver ripassato con noi questo 2013. C'è sete di informazione europea, vero Jacopo? C'è comunque voglia, c'è consapevolezza, c'è desiderio secondo di capire? Secondo me sì, molto. Bisogna ricordarsi che l'Europa è l'Unione Europea, ha i volti talvolta noiosi delle istituzioni, ma è, come abbiamo visto, anche grandi storie di persone, di cittadini, di popoli che sono attivi. Insomma, ricordarsi che noi siamo europei e intorno a noi molte persone cercano il dialogo con noi. Eh sì, l'Europa è fatta di storie, fatta di persone. L'Europa è anche l'altra Europa. Grazie davvero. Internazionale.it, grazie, il sito di Internazionale. Ciao Jacopo, buon 2014. A voi tutti. Ciao. Europost-it. Su quali temi vorresti si concentrassero i politici? Rispondete a questa domanda e vincete uno smartphone. È il concorso lanciato dal Forum Europeo dei Giovani e dalla Lega dei Giovani Votanti per stimolare l'attenzione dei ragazzi alla politica e, contemporaneamente, chiedere la loro opinione su quali siano gli argomenti che i politici dovrebbero mettere nella loro agenda secondo i più giovani. La domanda va scritta e postata online, specificando il paese di provenienza, e venire promosso per cercare di ottenere il maggior numero di like possibile. Il post migliore verrà selezionato da una giuria della Lega dei Giovani Votanti, tenendo in considerazione come criterio principale proprio il numero di apprezzamenti ottenuti. Avete già in mente la vostra domanda? Allora andate su youngvoters.eu. Europe is more than just a place on the map. With its common heritage and history, shared values and achievements, Europe builds bridges, inspires hope, and forges new visions, enabling its citizens to look to the future with confidence. Europe also has a common currency, the euro. Our money as of 1st of January 2014. Uno spot che ricorda che in Lettonia ci sarà un capodanno particolare quest'anno, perché fra tre giorni, quindi dal 1 gennaio 2014, verrà adottato l'euro, sarà il 18esimo paese appunto a entrare nella zona euro, e come sempre, insomma, è un passaggio importante, un passaggio che spaventa, un passaggio che affascina. Per capire cosa sta succedendo in questi giorni in Lettonia, diamo il benvenuto a Paolo Pantaleo, traduttore, scrive di cose lettone su un blog, balticanews.wordpress.com. Ho detto bene, Paolo? Sì, sì, esatto. Eccoti, buongiorno. Qua. Ciao, buongiorno, benvenuto. Allora, come ci si sta preparando a questo ingresso nella zona euro? Beh, qui in Lettonia non con indifferenza, immagino. Senso che attualmente, diciamo, l'ingresso nell'euro non è visto benissimo dai lettoni, perlomeno dalla maggior parte dei lettoni, in quanto scatena un po' le consuete paure di qualsiasi paese che entra nell'eurozona, difficoltà a controllare i prezzi, paura dell'inflazione. Però d'altra parte è un percorso che ormai è figlio di anni di affrancamento dall'ex blocco sovietico, che ha portato la Lettonia prima a entrare nella NATO, nell'Unione Europea. Mm-hmm. E quindi è un percorso che comunque la stragrande maggioranza dei lettoni è convinta di fare, da un punto di vista proprio della geopolitica del paese, che si sente comunque europeo e occidentale. Certo. Certamente perdere il LAZ, la moneta nazionale locale, insomma, non è semplicissimo, anche perché il LAZ è uno dei simboli della prima indipendenza lettone dal 1918 al 1940, e poi della riconquista dell'indipendenza del 91. Insomma, il LAZ è veramente uno dei simboli dell'indipendenza e dell'identità nazionale lettone, per cui insomma non è una cosa banale, ecco. No, assolutamente. Un paio di settimane di convivenza, se non erro, delle due monete, giusto? Sì, ci sarà, come un po' è successo anche in Italia, infatti, il periodo in cui si potrà pagare in LAZ, però poi ogni resto verrà dato in euro fino al progressivo, insomma. Uh-huh. Conclusione del percorso, insomma, sì, un paio di settimane. C'è stato un bombardamento mediatico di educazione all'euro? O? Ma in parte sì, diciamo, il governo, le istituzioni hanno cercato in qualche modo di aumentare quantomeno il numero delle persone che potessero insomma, accogliere positivamente la moneta unica. Comunque le istruzioni sono state date, da diversi mesi ormai c'è un controllo costante delle istituzioni monetarie locali sui prezzi. D'altra parte negli ultimi mesi la Lettonia ha vissuto una fase quasi di deflazione, non c'è stata assolutamente inflazione. Già da alcuni mesi, da ottobre, ci sono i doppi cartellini con i prezzi sia in lats che in euro, per cui diciamo, la Lettonia si è mossa in tempo, più o meno l'informazione è abbastanza diffusa. Insomma. Prima hai citato appunto l'ingresso nell'euro come occasione ulteriore di affrancamento dalla Russia. Poco fa parlavamo con Jacopo Zanchini di Internazionale, delle vicende che hanno coinvolto l'Ucraina poche settimane fa. Hanno avuto ripercussioni sull'umore della popolazione lettone? Ma tutto quello che succede ad est in Lettonia è sentito in maniera molto, molto sensibile, perché comunque la Lettonia fra l'altro ha una situazione diciamo non esattamente uguale all'Ucraina, però abbastanza simile, nel senso che c'è una forte minoranza di russofoni anche in Lettonia, come anche in Estonia. Per cui ovviamente l'influenza della Russia come vicino scomodo è comunque molto forte. C'è da tenere presente che ci sono forti legami anche da un punto di vista economico. La Lettonia dipende, come gli altri stati baltici, unicamente dalla Russia per le forniture di gas, un po' come l'Ucraina, per cui insomma, anche se ovviamente il percorso è stato diverso e i baltici sono riusciti ad occidentalizzarsi in maniera molto più rapida e molto più indolore, però insomma un po' di timore c'è sempre quando in Lettonia si parla dell'influenza della Russia nel resto del bacino orientale. Ok, tu viaggi molto tra Italia e Lettonia, sarai uno di quelli più favorevoli, immagino. Sì, l'ingresso nell'euro sì. A te ti facilita la vita. Indubbiamente sì, anche perché ormai era dal 2008 che comunque il corso dell'euro e dell'asta era fisso, e per cui anche durante il periodo della grave crisi economica del 2009 in realtà il governo lettone ha mantenuto il cambio fisso, non ha scelto nessun tipo di svalutazione del lazio, per cui anche se tuttora c'era il lazio, in pratica era un euro sotto mentite spoglie. Ok, grazie a Paolo Pantaleo. Ricordiamo ancora balticanews.wordpress.com, il suo blog. Ciao Paolo e buon 2014. Grazie anche a voi. Ciao. Adesso un euro post-it e ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro Post-it. Horizon 2020. Il sito è online. Parte Horizon 2020, il programma quadro dell'Unione Europea a sostegno della ricerca e dell'innovazione. Avrà ufficialmente inizio il 1 gennaio 2014 e vanta un budget per il periodo 2014-2020 di 70,2 miliardi di euro, destinati a soggetti sia pubblici che privati. È stato approvato dal Parlamento europeo per finanziare l'innovazione e la ricerca, le piccole e medie imprese, gli investimenti nelle fonti rinnovabili e non solo. Per saperne di più sui bandi e sulle opportunità di finanziamento, è appena stato lanciato un portale che raccoglie tutte le informazioni, i documenti e le scadenze per cui si può inoltrare una domanda. Per trovare il portale, andate sulla sezione Ricerca e Innovazione sul sito della Commissione europea, ec.europa.eu/research, e poi cliccate Horizon 2020. Va tutto bene. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, ultima puntata dell'anno. Stiamo guardando un po' indietro, stiamo ripassando questo 2013, e per introdurre il prossimo ospite abbiamo utilizzato questo spot, questa musica che già conosciamo. È un robottino che rilancia la campagna a favore della sicurezza dei giocattoli, che nel periodo delle feste è assolutamente fondamentale ricordare. E, beh, lui si è battuto molto non solo quest'anno ma anche gli anni scorsi per questa campagna. Diamo il benvenuto al vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani. Buongiorno Tajani, buone feste. Buongiorno a tutti i ascoltatori, buona Natale e buon 2014 a tutti. Grazie, so che è molto affezionato a questo robottino che ricorda quanto debba essere importante la tracciabilità, soprattutto legata ai giocattoli, vero? Assolutamente, noi combattiamo una battaglia quotidiana contro la contraffazione e per far acquistare giocattoli sicuri alle nostre famiglie, perché sappiamo bene che il 60% dei giocattoli in Europa viene venduto durante questa stagione, cioè tra la vigilia di Natale e il periodo successivo all'Epifania. E noi chiediamo ai genitori di fare attenzione, di guardare sempre se il giocattolo è munito del marchio CE, che è un marchio di garanzia che in sostanza dice che il giocattolo è stato prodotto senza violare le norme comunitarie in materia di sicurezza, quindi rispetta la direttiva europea sui giocattoli che è in vigore dal 2011. Naturalmente poi invitiamo anche i genitori a non acquistare giocattoli inadatti ai bambini, certo. Cioè vedere se per esempio un giocattolo è adatto per un bambino per 5 anni non deve essere regalato a un bambino di 3 anni. Purtroppo ci sono molti giocattoli contraffatti, in maggior parte provenienti dalla Cina, che non hanno il marchio CE o addirittura hanno il marchio CE contraffatto. Ecco, per capirci, le parole C, la lettera C, la lettera E non devono essere molto vicine. Insomma, bisogna essere molto attenti, molto consapevoli e molto responsabili. E ogni chiedere al negoziante, esatto, chiedere l'aiuto del negoziante e in caso di dubbio chiamare la Guardia di Finanza. Certo, insomma, ogni attore di questa partita deve essere coinvolto. Commissario Tajani, oggi l'abbiamo invitata anche per ripassare un po' questo 2013, anno europeo della cittadinanza, e quindi un forte impegno per cercare di avvicinare l'istituzione al cittadino. Com'è andata? Si può fare un consuntivo finale? Ma è andata abbastanza bene, perché sono stati contattati in tutta Europa migliaia e migliaia di giovani e di persone con le quali i commissari hanno avuto un dialogo diretto, cioè abbiamo risposto alle loro domande. Io ho partecipato ad una a Roma ed una a Ventotene, cosa molto caratteristica. Il presidente della provincia di Latina, Armando Busani, organizzò nell'isola dove venne scritto il famoso manifesto di Altiero Spinelli, 500 ragazzi che per una giornata intera delle scuole, studenti delle scuole della provincia di Latina, hanno discusso di Europa, ma non di un'Europa della teoria, ma di un'Europa della pratica, cioè cosa fa l'Europa per loro, quali sono i problemi che deve risolvere e per permettere loro di vivere in condizioni migliori, cioè parlare di lavoro, parlare di utilizzo dei fondi europei, parlare di Erasmus per studenti, Erasmus per giovani imprenditori, Erasmus per lavoratori, un utilizzo dei fondi strutturali, ma anche conoscere i valori dell'Europa e i risultati che ha raggiunto l'Europa in questi primi decenni di vita, ma anche capire che l'Europa deve andare avanti, non può accontentarsi dei risultati avuti, perché sennò crescerà il malcontento e aumenterà il numero degli euroscettici. Comunque è importante avere questo dialogo diretto, questo confronto con i giovani soprattutto, che possono porre domande senza veli a chi li rappresenta nelle istituzioni. Certo, un 2013 che è stato un anno importante, anche un anno ponte verso il 2014, quando ci saranno le elezioni europee. Qual è il polso della situazione dal cuore dell'Europa, dai vostri uffici? C'è innamoramento verso questa Europa o la crisi ha allontanato i cittadini dall'Europa? Ma certamente non possiamo far finta di non comprendere che c'è un forte malcontento che si è manifestato con il voto dato a forze che sono molto critiche, se non addirittura contrarie all'Europa. Non si può far finta di nulla, bisogna prendere il toro per le corna e capire perché i cittadini sono scontenti. Certamente la crisi contribuisce alla disaffezione, e ecco perché noi dobbiamo svolgere un'azione politica che non sia soltanto di rimessa in ordine dei conti pubblici, ma sia un'azione politica destinata a favorire l'industria, l'impresa, il mercato interno, insomma la crescita, perché se si chiede ai cittadini di fare soltanto sacrifici e quei sacrifici non sono compensati da una forte azione a sostegno dell'economia reale e quindi di chi può creare nuovi posti di lavoro, questi sacrifici vengono percepiti come una distrazione. Insomma, un'Europa che sappia rimettere a posto i conti, ma che anche nello stesso tempo permetta la crescita dell'economia. Ecco perché io sto lavorando intensamente con azioni a sostegno dell'industria, delle imprese, a favore del mercato interno. C'è stato un cambiamento dopo tanti anni di innamoramento solo della finanza, per cui oggi l'Europa ha capito che il futuro non è solo la finanza, ma il futuro si chiama industria e imprese. E Tajani, lei nel suo lavoro viaggia molto, viaggia ovviamente in tutta Europa. Come ha terminato l'anno nel segno dell'ottimismo? Ha visto qualche segnale concreto di ripresa o perlomeno di speranza? Ma ci sono dei timidi segnali di ripresa in alcuni paesi dell'Unione. In Italia sono timidissimi, forse serviva una manovra economica più coraggiosa, che intervenisse sul mercato del lavoro, che intervenisse sulla riduzione della pressione fiscale per le imprese. L'Italia ha bisogno di riforme. Pensiamo cosa ha fatto la Spagna, che vive un momento, che viveva un momento di difficoltà, ma oggi può guardare al futuro con maggior speranza. Un taglio del 9% per le imprese significa per l'Italia tagliare cifre come 80 miliardi di euro, se facessero le stesse cose che ha fatto la Spagna. Noi abbiamo bisogno di più forza, più determinazione. Penso per esempio alla maggiore flessibilità per l'ingresso del lavoro, la famosa proposta dell'articolo 18, certo, collegata ai giovani che cominciano a lavorare, e serve ridurre il cuneo fiscale, insomma serve dare ossigeno alle imprese, questa è la parola chiave. Noi non possiamo pensare di uscire dalla crisi se non lavoriamo per sostenere l'economia reale. Dove si fa questo le cose vanno meglio. In Italia c'è la vergogna del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni alle imprese, ci sono 70, 80, 100 miliardi, è già una vergogna che non si sappia quanto ammonta il debito e anche i ritardi rispetto alle nuove normative che sono normative entrate in vigore dall'inizio di quest'anno, che impongono il pagamento in 30 giorni, in 60, con una mora dell'8,25% degli anni. Anche questa norma non è rispettata, ecco perché sarò costretto fra un paio di mesi ad aprire una procedura di infrazione. Questo è assolutamente scoraggiante. Tajani, un'ultima domanda riguardando questo 2013, anche nel suo operato, nella sua quotidianità, c'è un'immagine, c'è un evento, c'è una situazione che meglio rappresenta quest'anno? Anche il regalo più bello di Natale che ho avuto l'ho avuto dagli operai delle Asture della fabbrica Tecneco, che sta chiudendo. Noi ci siamo battuti perché questa fabbrica, che ha sede anche in Italia, non chiuda, perché una fabbrica che ha utili non può chiudere. Vedere mentre c'è un forte malcontento operai che avevano fatto 25 ore di viaggio dalle Asturie a Bruxelles, applaudire il commissario che andrà a dire loro una parola di fiducia, cioè la Commissione Europea si batterà finché la vostra fabbrica, chi guadagna, non si è chiusa. Ecco, questa risposta a un messaggio di fiducia, con altrettanta fiducia, dimostra che quando si fa i cittadini sono contenti, quando si agisce per i loro interessi non c'è malcontento nei confronti dell'Unione Europea, ma l'Europa raccoglie applausi. Per me è stato veramente un regalo che mi ha commosso e continuerò a fare il tutto perché si possa difendere il lavoro in Europa e si possa dare una prospettiva di ottimismo ai nostri giovani. Ha bisogno di essere determinati nel combattere questa battaglia. Questo mi sembra il miglior auspicio per il 2014. Grazie davvero al vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani. E Tajani, buon anno. Buon anno a tutti quanti voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie davvero, buona giornata. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Arriva la guida Erasmus Plus. Le organizzazioni che nel 2014 vogliono candidarsi per ottenere un finanziamento attraverso Erasmus Plus, il nuovo programma dell'Unione Europea a favore dell'istruzione e della formazione dei giovani e dello sport, possono iniziare fin da subito a preparare le domande di sovvenzione. È appena uscita la guida del nuovo programma Erasmus Plus, che fornisce informazioni dettagliate su come presentare le richieste, ed è disponibile sulla pagina dedicata al programma Erasmus Plus sul sito della Commissione Europea. Europea. Il programma è aperto ad organizzazioni che operano nel settore dell'istruzione, della formazione, dei giovani o dello sport. Le candidature per il finanziamento possono essere presentate online a partire dalla fine di gennaio. Per la prima volta saranno concessi finanziamenti non solo a università e istituti di formazione, ma anche a nuovi partenariati, che costituiranno sinergie tra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro. Per cercare la guida e le informazioni andate su ec.europa.eu/program/Erasmus-plus. Bienvenidos a Serpandipity, un servicio para aquellos que buscan viajar de otra manera, para los que les gusta vivir cada destino y disfrutar de experiencias únicas. Planificar un viaje resulta muy sencillo si puedes contar con gente local, afín a ti y de confianza, que te ayuden a planificar y disfrutar de tu visita al máximo. Nuestros Serpas. Si te gusta ir por libre, el servicio Plan es el tuyo. Un Serpa te preparará un plan completo a tu medida que podrás consultar en el móvil cuando lo necesites. Vabbè, e il 2013 lo chiudiamo così, è la nostra risposta alla crisi, la crisi che continua a colpire l'Europa, però abbiamo detto mille volte che la crisi diventa anche stimolo, diventa così un qualcosa che introduce nuove energie creative, nuove idee, un nuovo fermento, e quindi volevamo prendere un esempio di queste nuove energie generate anche dalla crisi. È un progetto spagnolo, si chiama Serpandipity, e ce lo presenta un collaboratore, un consulente, si chiama Marco Fettolini, da 18 anni, vive in Spagna. Ciao Marco, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, grazie. Allora, tu collabori con varie società e quindi hai avuto modo anche di conoscere questa startup spagnola. Di cosa si tratta? Sì, sì, esattamente. Allora, Serpandipity è una piattaforma attraverso la quale qualsiasi persona che si trova in viaggio, concretamente adesso in Spagna, a Madrid, può avere l'occasione di viaggiare in un modo diverso, di sperimentare la vita così come succede veramente sul luogo, no? Mm-hmm. Quindi nasce anche il nome si basa su un mix fra queste due parole, uno Sherpa, che sono queste persone, no? che locali, che aiutano a vivere la vita così come avviene veramente, non in un pacchetto turistico, diciamo. E Serendipity, che è questa parola inglese che define un po' una piacevole scoperta inaspettata. Uh-huh. E da queste due parole nasce anche un po' il concetto che nell'ambito del consumo collaborativo così in voga oggigiorno è alla base di questo progetto, diciamo. Uh-huh. Un progetto che nasce in ambito universitario, chi ha avuto l'idea? I fondatori sono stati tre persone fondamentalmente che arrivano dal campo, diciamo, ingegneria e sviluppo software. Si chiamano Silvia Varela, Fernando Braviglio e Irene Serrano, dall'amicizia, che è anche poi una collaborazione professionale che poi trova, diciamo, uno sviluppo nell'ambito di una serie di iniziative di un incubatore di progetti nuovi di gente giovane per spingerli nel successo web, speriamo, futuro. Mm-hmm. E l'idea comunque è concreta, è questa, nel senso che tu decidi di visitare una città e lì trovi delle guide locali, di fatto sono abitanti di quella città, di quel quartiere, che si prendono cura di te. Sì, sì, esattamente, quindi una persona facilmente sulla pagina può creare un proprio profilo, anche definendo le lingue che parla, quali sono i propri interessi, se ha qualche tipo di necessità speciale, come per esempio una persona che viaggia da sola, con dei bambini, o è interessata a vedere dei musei, arte, cultura, sport, attività all'aria aperta, e può entrare in contatto quindi con altre persone che sono gli Sherpa, quindi queste guide locali, che offrono loro un pacchetto di esperienze uniche sul territorio che non avrebbero modo di avere, non potrebbero avere accesso a queste esperienze in un altro modo. Mm-hmm. Normalmente i pacchetti turistici sono includono esperienze locali, diciamo, però molto predefinite. molto per la massa, e invece in questo modo uno può avere l'occasione di vivere cose diverse che non sono per la massa, ma molto più uniche e affini. Certo, sherpandipiti.com è il sito ufficiale. Grazie davvero Marco per questa presentazione, per averci fatto assaggiare un po' questo nuovo progetto. Ciao e buon anno. Ciao, buon anno a tutti, grazie. Europost-it. European Border Breakers Awards. Lo European Border Breakers Awards è un premio ideato dalla Commissione europea per dare visibilità e sostenere le eccellenze musicali europee. Ogni anno 10 artisti da tutta Europa vengono scelti dal pubblico e premiati in un grande evento internazionale. Anche quest'anno avete un cantante preferito a livello internazionale? Votatelo sul sito ufficiale del premio e potrete seguire anche l'evento di premiazione finale con tanto di concerto il 15 gennaio a Groningen, nei Paesi Bassi. Trovate i candidati con le loro canzoni e la possibilità di votare su europeanborderbreakersawards.eu. Sarà una delle mete più gettonate in questo Capodanno, ma è una anche delle città europee che in questi mesi, forse anche in questi anni, più ha attratto, ha calamitato energie nuove. Sto parlando di Berlino, ma esiste anche un'altra Berlino, ovvero, o meglio, questo mito di Berlino è un mito consolidato, è un mito giustificato. Ne parliamo con Marco Magnone, che ha appena pubblicato un ebook intitolato Bim Boom Berlin, che affronta proprio questo argomento. Ciao Marco, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, ciao a tutti. Tu sei uno scrittore, giornalista e ti sei cimentato, dopo aver vissuto per un paio d'anni a Berlino, con questa prova, questo esercizio, raccontare una Berlino forse meno nota, una Berlino forse meno mitizzata? Sì, io ho vissuto un paio d'anni, come dicevi tu, tra il 2005 e il 2007, e da allora fino a quest'anno non ho mai avuto la possibilità di cimentarmi, di raccontare, di scrivere qualcosa su Berlino. L'occasione giusta è capitata con questo ebook, un progetto della casa editrice Zandegu, sfruttando proprio il fatto che per tutto il 2012 e anche il 2013 ho notato come Berlino diventasse sempre più un fenomeno mainstream, di moda, di tendenza. E questa cosa mi incuriosiva per andare a vedere quanto fosse cambiata e come stesse crescendo una comunità italiana sempre più in espansione. E così ho immaginato questo reportage a due binari, dove da una parte provo a fare un viaggio dentro la comunità italiana sempre più numerosa, con la fuga di cervelli, tutto quello che conosciamo e che riguarda la generazione di miei coetanei, i trentenni, e dall'altra parte, proprio allo specchio della comunità italiana, ho provato a raccontare una città in perenne cambiamento che mi sembra stia passando sempre di più da un fenomeno underground a qualcosa di overground, perdendo un po' di spontaneità e acquistando un po' di muri, sì scrostati, ma scrostati ad arte. Mm-hmm. E questi italiani che vanno a Berlino, perché a Berlino sembra sia più facile trovare lavoro, perché a Berlino c'è più creatività, perché a Berlino la cultura viene messa al primo posto, in cosa si scontrano quando poi veramente arrivano a Berlino? Spesso con l'esigenza di pagare le bollette, di arrivare anche lì a fine mese. Infatti non esistono più da tempo i gastarbeiter classici, i lavoratori che partivano scegliendo di andare a fare lavori stagionali, braccianti e anche più manuali in Germania, ma spesso molti italiani finiscono per diventare gastarbeiter loro malgrado. Sono tantissimi i miei coetanei che vanno su con l'idea di svolgere uno dei cosiddetti lavori creativi, aspiranti fotografi, attori, giornalisti, scrittori, e poi in attesa dell'occasione buona si ritrovano a fare i camerieri, i Pony Express, eccetera. quello che è importante è quindi, e che mi hanno ripetuto tutti quelli che ho intervistato, arrivare a Berlino con un'idea, con un progetto, con un piano, perché altrimenti un lavoro classico, se cerchi un lavoro classico, Berlino non è la città giusta. Mm-hmm. Andrai a Berlino per Capodanno anche tu? Guarda, ci sono andato per 5 anni di fila e purtroppo quest'anno no, però lo consiglierei a tutti perché è un'esperienza unica, è molto diversa rispetto all'immaginario che uno può avere della classica città tedesca ordinata dove tutto funziona. Berlino veramente la pazzia della città raggiunge i livelli massimi. Ok, un posto che ti senti di consigliare assolutamente? Allora, direi che attualmente il place to be a Berlino è assolutamente Neukölln, un quartiere che molti considerano a maggioranza turca, ma che in realtà solo la sua parte nord a maggioranza turca, ma è tradizionalmente un quartiere popolare della parte ex occidentale di Berlino, che negli ultimi anni è passato dall'essere anche uno dei quartieri più economici, dove appunto ci vivevano sia turchi che tedeschi, ma con gli affitti più bassi e anche tradizionalmente meta di studenti. Negli ultimi anni è esploso nella sua vita notturna, nell'offerta culturale, nell'offerta di locali, mostre, eventi artistici, ed è veramente quello che poteva essere Kreuzberg o Friedrichshain, altri quartieri che andavano più sulla cresta dell'onda qualche anno fa. Grazie davvero a Marco Magnone. Marco, vuoi darci un indirizzo email per acquistare il tuo ebook? Sì, Bim Bum Berlin è disponibile in tutte le librerie digitali da Amazon in giù e sul sito della casa editrice www.zandegu.it. Perfetto, grazie davvero e buon anno. Ciao Marco. Grazie e buon anno a tutti. E questo grazie, questo augurio da parte di tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Ina, Miriam Lucchetti, Pietro Lacorte, Valeria Bernardi, il nostro migliore augurio per un buon Capodanno. L'appuntamento con l'Altra Europa è sabato prossimo. Radio24.it per riascoltarci e per scaricare il podcast. Ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.